L'ostia è il nemico da cui, per metafora, la vittima che si offre in sacrificio. Nel cristianesimo diventa la persona del verbo incarnatosi per espiare di propria volontà peccati niente affatto propri. Al di là delle etimologie e delle mistiche investiture, comunque, l'ostia è farina di frumento intrisa d'acqua e cotta al fuoco, come recita il terzo volume del dizionario di teologia del Breguet. Sulla bistecca al sangue ben cotta, o sull'aggiunta di pezzetti di pancetta nelle lenticchie, sulla tettina nel bollito misto, o sulla copertura del carpaccio con la rucola ed altro ancora, vabbè, ho sentito spesso discorrere e, se non proprio venire alle mani, almeno litigare avanzando dotti argomenti e coprendo di trivialità l'antagonista. Sul cibo si discute come su che sia d'altro, nelle cucine come nelle sacrestie, ma mai si pensa a queste discussioni come a qualcosa capace di incidere seriamente sui valori davvero in gioco nella storia umana. Tertulliano doveva essere tutto tranne che un buon tempone, e gli amici non dovevano di certo fare a gara per farsi invitare a cena da lui. Nell'apologetico ci offre più di un saggio del proprio rigore morale e della propria dedizione al sacrificio. Nel lamentarsi della debosha dei tempi, fra l'altro, fa notare come non si possa più avvicinare una donna che non puzzi di vino e, soprattutto, si indigna per la questione del numero delle galline sulle mense, che nel suo precettario non dovrebbero mai essere più di una e, a maggior ragione, forse per via del colesterolo e degli estrogeni di allora, mai ed in alcun modo ingrassata. Ne avrebbe prescritto una più del diavolo, Tertulliano, ma la Chiesa, si sa, già allora proprio quello specchio di virtù non era, e l'ideale dello stilita non riscuoteva quel successo che un Tertulliano avrebbe desiderato. Fu così che, a forza di rimanere nella mozione di estrema minoranza, a forza di invocare nuove e più efficaci privazioni, il nostro si mise nei guai e rimase impegolato in una diatriba ideologica senza precedenti che si concluse con una condanna per eresia. Si trattò di uno strano caso di eresia eucaristica. All'origine della questione sta un certo Montano, un frigio del secondo secolo toccato da Dio e presumibilmente non solo da lui, visto che oltre che epilettico era anche eunuco. Costui, fra un accesso e l'altro, autodichiarandosi il paracleto promesso dal Cristo, andò in giro ad ammaestrare le genti e a fare proseliti. Fece presto dalla sua un paio di fanciulle illuminate anch'esse dall'estasi, la Priscilla e la Massimilla, e costrinse ben presto la Chiesa ad espellerlo dal suo seno per eresia. Le sue tesi preferite erano essenzialmente due. Uno, che Gesù si fosse tenuto parecchi assi nella manica per scarsa considerazione del comprendonio di chi lo stava a sentire, da cui, diciamo, una sorta di rivelazione a rate. E che gli apostoli, quanto a morale, avessero con lui più o meno lo stesso rapporto che intercorre fra Moana Pozzi e Suor Teresa di Calcutta. Più austerità ci voleva. Intanto non mandare assolti proprio tutti i peccatori, insomma, qualche bocciato per dare l'esempio. Poi nessuna fuga di fronte alle persecuzioni, è troppo facile fare il cristiano in clandestinità. Niente seconde nozze, niente ornamenti, abolizione della filosofia e delle belle arti. E invece, questo sì, grandi digiuni. Per l'esattezza, 3 quaresime e 2 settimane e 2 di serofagia, che non vuol dire altro che mangiare roba secca e che per l'intestino dovevano essere un toccasana. Inutile dire che ebbe grande successo. Tanto successo che la sua setta, prima di venir riassorbita, tirò avanti fino almeno all'incirca l'VIII secolo. Non senza, tuttavia, aver subito la classica scissione E qui viene il bello, perché si trattò, almeno in partenza, di una scissione tutta alimentare. Da una parte, infatti, i montanisti formarono la setta degli asciti, dal greco ascos, che sta per otre, sacco di pelle, che questa setta degli asciti espletava le proprie funzioni religiose danzando intorno ad una pelle gonfia come gli otri di cui parla Matteo 9:17, che a rigore avrebbero dovuto essere pieni di vino. Questi asciti, contrari coerentemente all'acqua del battesimo, che sembrerebbero gli stessi, questi asciti, gli stessi altrimenti nominati come ascodruti o ascodrupiti o tascodrugiti o passalorinchiti o infine peltalorinchiti. Beh, questi peltalorinchiti o asciti sono anche passati alla storia per aver imposto la drastica misura di infilarsi un dito nel naso a chi si imperforava nella preghiera, mantenendovelo per l'intera durata del raccoglimento. Dall'altra parte, dai montanisti prese piede la setta degli artotiriti, detti anche prisciliani, dalla fanciulla soprannominata, o pepuziani, da Pepuzia, città della Frigia, o quintiliani, dallo sa Dio perché, i quali artotiriti scelsero, per una dubbia interpretazione, una molto dubbia interpretazione delle scritture, scelsero l'impervia strada di prescrivere che l'ostia consacrata per l'Eucaristia venisse impastata con del formaggio. Impastata e non imbottita, come erroneamente afferma Rattray Taylor in Il sesso nella storia. Ora, mentre per il sottoscritto, che odia i formaggi e la filosofia e che quindi comprende bene la perfidia del sacrificio di inghiottire un'ostia al formaggio, che odia i formaggi e la filosofia ma ama il vino, per il sottoscritto un'eventuale scelta in caso di successo planetario del montanismo, a parte le dita nel naso, sarebbe stata facile, non altrettanto deve essere stato per Tertulliano, che in nome del montanismo ci ha rimesso la reputazione. Attratto irresistibilmente dal rigore morale e dalla conclamazione dell'austerità, ha cominciato con l'aderire, ma al dunque, forse respinto dall'alito di Massimilla, ha preferito ritrarsi e mettersi settariamente in proprio, troppo tardi comunque per trovare comprensione in una chiesa cattolica romana dai costumi irrimediabilmente più rilassati. The world, please hold your hand. The victim is so blind he cannot see. Witness for the world.